Il capretto nero, dalla nona raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Laura, novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Il capretto nero. Senza dubbio, il signor Charles Trockley ha ragione. Sono anzi disposto ad ammettere che il signor Charles Trockley non può avere torto mai, perché la ragione e lui sono una cosa sola. Ogni mossa, ogni sguardo, ogni parola del signor Charles Trockley sono così rigidi e precisi, così ponderati e sicuri, che chiunque senz'altro deve riconoscere che non è possibile che il signor Charles Trockley, in qualsivoglia caso, per ogni questione che gli sia posta, o incidente che gli occorra, e sia dalla parte del torto. Io e lui, per portare un esempio, siamo nati lo stesso anno, lo stesso mese e quasi lo stesso giorno. Lui in Inghilterra, io in Sicilia. Oggi, 15 di giugno, egli compie 48 anni. 48 ne compirò io il giorno 28. Bene, quanti anni avremo lui il 15 e io il 28 di giugno dell'anno venturo? Il signor Trockley non si perde, non esita un minuto. Con sicura fermezza sostiene che il 15 e il 28 di giugno dell'anno venturo lui e io avremo un anno di più, vale a dire 49. È possibile dar torto al signor Charles Trockley? Il tempo non passa ugualmente per tutti. Io potrei avere da un sol giorno, da un'ora sola più danno che non lui da 10 anni passati nella rigorosa disciplina del suo benessere. Potrei vivere per il deplorevole disordine del mio spirito durante quest'anno più d'una vita intera. Il mio corpo più debole, assai meno curato del suo, si è poi, in questi 48 anni, logorato quanto certamente non si logorerà in 70 quello del signor Trockley. Tant'è vero che egli, pur coi capelli tutti bianchi d'argento, non ha ancora nel volto di gambero cotto la minima ruga e può ancora tirare di scherma ogni mattina con giovanile agilità. Ebbene, che importa? Tutte queste considerazioni ideali e di fatto sono per il signor Charles Trockley oziose e lontanissime dalla ragione. La ragione dice al signor Charles Trockley che io e lui, a conti fatti, il 15 e il 28 di giugno dell'anno venturo avremo un anno di più, vale a dire 49. Premesso questo, udite che cosa è accaduto di recente al signor Charles Trockley e provatevi, e se vi riesce a dargli torto. Lo scorso aprile, seguendo il solito itinerario tracciato dal Baedeker per un viaggio in Italia, Miss Ethel Holloway, giovanissima e vivacissima figlia di Sir Holloway, ricchissimo e autorevolissimo pari d'Inghilterra, capitò in Sicilia, a Girgenti, per visitarvi i meravigliosi avanzi dell'antica città dorica. Allettata dall'incantevole piaggia, tutta in quel mese fiorita del bianco fiore dei mandorli, al caldo soffio del mare africano, pensò di fermarsi più di un giorno nel grande Hotel des Temples, che sorge fuori dell'erta e misera cittaduzza d'oggi, nell'aperta campagna, in un luogo amenissimo. Da 22 anni il signor Charles Trockley è viceconsole d'Inghilterra a Girgenti e da 22 anni, ogni giorno, sul tramonto, si reca a piedi col suo passo elastico e misurato dalla città alta sul colle alle rovine dei templi, acragantini, aerei e maestosi, sull'aspro ciglione che arresta il declivio della collina accanto, la collina Acrea, su cui sorse, un tempo, fastosa di marmi, l'antica città da Pindaro esaltata come bellissima tra le città mortali. Dicevano gli antichi che gli acragantini mangiavano ogni giorno come se dovessero morire il giorno dopo e costruivano le loro case come se non dovessero morire mai. Poco ora mangiano, perché grande è la miseria nella città e nelle campagne, e delle case, della città antica, dopo tante guerre e 7 incendi e altrettanti saccheggi, non resta più traccia. Sorge al posto di esse un bosco di mandorli ed olivi saraceni, detto perciò il bosco della Civita. E i chiomati olivi cinerulei s'avanzano in teoria fin sotto alle colonne dei tempi maestosi e par che preghino pace per quei clivi abbandonati. Sotto il Ciglione scorre, quando può, il fiume Acragas che Pindaro glorificò come ricco di greggi. Qualche greggiola di capre attraversa tuttavia il letto sassoso del fiume, si inerpica sul Ciglione roccioso e viene a stendersi a rugumare il magro pascolo all'ombra solenne dell'antico Tempio della Concordia, integro ancora. Il capraio, bestiale e sonnolento come un arabo, si sdraia anche lui sui gradini del pronao dirupati e trae qualche suono lamentoso dal suo zufolo di canna. Al signor Charles Trockley questa intrusione delle capre nel tempio è sembrata sempre un'orribile profanazione e innumerevoli volte ne ha fatto formale denuncia ai custodi dei monumenti senza ottenere mai altra risposta che un sorriso di filosofica indulgenza e un'alzata di spalle. Con veri fremiti di indignazione il signor Charles Trockley di questi sorrisi e di queste alzate di spalle s'è lagnato con me, che qualche volta lo accompagno in quella sua quotidiana passeggiata. Avviene spesso che, o nel Tempio della Concordia, o in quello più su, di Hera Lacinia, o nell'altro, detto volgarmente dei giganti, il signor Trockley si imbatta in comitive di suoi compatriotti venuti a visitare le rovine. E a tutti! Egli fa notare con quell'indignazione che il tempo e l'abitudine non hanno ancora per nulla placato o affievolito la profanazione di quelle capre sdraiate e rugumanti all'ombra delle colonne. Ma non tutti gli inglesi visitatori, per dir la verità, condividono l'indignazione del signor Trockley. A molti, anzi, sembra non privo di una certa poesia il riposo di quelle capre nei tempi, rimasti come sono ormai solitari in mezzo al grande smemorato abbandono della campagna. Più d'uno, con molto scandalo del signor Trockley, di quella visita si mostra anzi lietissimo e ammirato. Più di tutti, lieta e ammirata, e se ne mostrò lo scorso aprile la giovanissima e vivacissima Miss Ethel Holloway. Anzi, mentre l'indignato viceconsole stava a darle alcune preziose notizie archeologiche, di cui né il Baedeker né l'altra guida hanno ancora fatto tesoro, Miss Ethel Holloway commise l'indelicatezza di voltargli le spalle improvvisamente per correre dietro a un grazioso capretto nero, nato da pochi giorni, che tra le capre sdraiate springava qua e là come se per aria attorno gli danzassero tanti moscerini di luce. E poi di quei suoi salti arditi e scomposti pareva restasse lui stesso sbigottito, che ancora ogni lieve rumore, ogni alito d'aria, ogni piccola ombra nello spettacolo per lui tuttora incerto della vita lo facevano rabbrividire e fremere tutto di timidità. Quel giorno io ero col signor Trockley e se molto mi compiacqui della gioia di quella piccola miss, così di subito innamorata del capretto nero da volerlo a ogni costo comperare, molto mi dolsi anche di quanto toccò a soffrire al povero signor Charles Trockley. Comperare il capretto? Sì, sì, comperare subito, subito. E fremeva tutta anche lei la piccola miss, come quella cara bestiolina nera, forse non supponendo neppur lontanamente che non avrebbe potuto fare un dispetto maggiore al signor Trockley, che quelle bestie odia da tanto tempo ferocemente. Invano il signor Trockley si provò a sconsigliarla, a farle considerare tutti gli impicci che le sarebbero venuti da quella compera. Dovette cedere alla fine e per rispetto al padre di lei accostarsi al selvaggio capraio per trattar l'acquisto del capretto nero. Miss Ethel Holloway, sborsato il denaro della compera, disse al signor Trockley che avrebbe affidato il suo capretto al direttore dell'Hotel de Temple, che poi, appena ritornata a Londra, avrebbe telegrafato perché la cara bestiolina, pagate tutte le spese, le fosse al più presto recapitata. E se ne tornò in carrozza all'albergo col capretto belante e guizzante tra le braccia. Vidi incontro al sole che tramontava fra un mirabile frastaglio di nuvole fantastiche tutte accese sul mare che ne splendeva sotto come uno smisurato specchio d'oro. Vidi nella carrozza nera quella bionda giovinetta gracile e fervida allontanarsi, infusa nel nembo di luce sfolgorante, e quasi mi parve un sogno. Poi compresi che, avendo potuto pur tanto lontana dalla sua patria, dagli aspetti e dagli affetti consueti della sua vita, concepir subito un desiderio così vivo, un così vivo affetto per un piccolo capretto nero, ella non doveva avere neppure un briciolo di quella solida ragione che con tanta gravità governa gli atti, i pensieri, i passi e le parole del signor Charles Trockley. E che cosa aveva allora al posto della ragione la piccola Miss Ethel Holloway? Nient'altro che la stupidaggine, sostiene il signor Charles Trockley, con un furore a stento contenuto che quasi quasi fa pena in un uomo come lui, sempre così compassato. La ragione del furore è nei fatti che son seguiti alla compera di quel capretto nero. Miss Ethel Holloway partì il giorno dopo da Girgenti. Dalla Sicilia doveva passare in Grecia, dalla Grecia in Egitto, dall'Egitto nelle Indie. È un miracolo che, arrivata sana e salva a Londra sulla fine di novembre, dopo circa 8 mesi e dopo tante avventure che certamente le saranno corse in un così lungo viaggio, essi si sia ancora ricordata del capretto nero, comperato un giorno lontano tra le rovine dei templi a Cragantini in Sicilia. Appena arrivata, secondo il convenuto, scrisse per riaverlo al signor Charles Trockley. L'Hôtel des Temples e si chiude ogni anno alla metà di giugno per riaprirsi ai primi di novembre. Il direttore, a cui Miss Ethel Holloway aveva affidato il capretto alla metà di giugno, partendo, lo aveva a sua volta affidato al custode dell'albergo, ma senza alcuna raccomandazione, mostrandosi anzi seccato più di un po' del fastidio che gli aveva dato e seguitava a dargli quella bestiola. Il custode aspettò di giorno in giorno che il viceconsole, il signor Trockley, per come il direttore gli aveva detto, venisse a prendersi il capretto per spedirlo in Inghilterra. Poi, non vedendo comparir nessuno, pensò bene, per liberarsene, di darlo in consegna a quello stesso capraio che lo aveva venduto alla miss, promettendoglielo in dono se questa, come pareva, non si fosse più curata di riaverlo, o un compenso per la custodia e la pastura nel caso che il viceconsole fosse venuto a chiederlo. Quando dopo circa 8 mesi arrivò da Londra la lettera di Miss Ethel Holloway, tanto il direttore dell'Hôtel des Temples quanto il custode, quanto il capraio si trovarono in un mare di confusione. Il primo, per aver affidato il capretto al custode. Il custode per averlo affidato al capraio e questi per averlo a sua volta dato in consegna a un altro capraio con le stesse promesse fatte a lui dal custode. Di questo secondo capraio non s'avevano più notizie. Le ricerche durarono più di un mese. Alla fine, un bel giorno, il signor Charles Trockley si vide presentare nella sede del viceconsolato in Girgenti un orribile bestione cornuto, fetido, dal vello stinto rossigno strappato e tutto incrostato di sterco e di mota, il quale, con rochi profondi e tremuli belati a testa bassa, minacciosamente pareva domandasse che cosa si volesse da lui, ridotto per necessità di cose in quello stato, in un luogo così strano dalle sue consuetudini. Ebbene, il signor Charles Trockley, e secondo il solito suo, non si sgomentò minimamente a una tale apparizione, non tentennò un momento. Fece il conto del tempo trascorso, dai primi di aprile agli ultimi di dicembre, e concluse che, ragionevolmente, il grazioso capretto nero d'allora poteva essere benissimo quest'immondo bestione d'adesso, e senza neppure un'ombra d'esitazione rispose alla miss che subito gliel'avrebbe mandato da Porto Empedocle col primo vapore mercantile inglese di ritorno in Inghilterra. Appese al collo di quell'orribile bestia un cartellino con l'indirizzo di Miss Ethel Holloway e ordinò che fosse trasportata alla marina. Qui, lui stesso, mettendo a grave repentaglio la sua dignità, e si tirò dietro con una fune la bestia restia per la banchina del molo, e seguito da una frotta di monellacci, la imbarcò sul vapore in partenza e se ne ritornò a Girgenti, sicurissimo d'aver adempiuto scrupolosamente all'impegno che si era assunto, non tanto per la deplorevole leggerezza di Miss Ethel Holloway, quanto per il rispetto dovuto al padre di lei. Ieri il signor Charles Trockley è venuto a trovarmi in casa, in tali condizioni d'animo e di corpo che subito costernatissimo io mi son lanciato a soccorrerlo, a sorreggerlo, a farlo sedere, a fargli recare un bicchiere d'acqua. Per amor di Dio, signor Trockley, che vi è accaduto? Non potendo ancora parlare, il signor Trockley ha tratto di tasca una lettera e me la porta. Era di Sir Holloway, pari d'Inghilterra, e conteneva una filza di gagliarda insolenza al signor Trockley per l'affronto che questi aveva osato fare alla figliuola, Miss Ethel, mandandole quella bestia immonda e spaventosa. Questo in ringraziamento di tutti i disturbi che il signor Trockley s'era presi. Ma che s'aspettava dunque quella stupidissima Miss Ethel Holloway? Si aspettava che a circa 11 mesi dalla compera le arrivasse a Londra quello stesso capretto nero che springava piccolo e lucido, tutto fremente di timidezza tra le colonne dell'antico tempio greco in Sicilia? Possibile. E signor Charles Trockley non se ne può dar pace. Nel vedermelo davanti in quello stato, io ho preso a confortarlo del mio meglio, riconoscendo con lui che veramente quella Miss Ethel Holloway deve essere una creatura non solo capricciosissima, ma oltre ogni dire irragionevole. Stupida, stupida, stupida. Diciamo meglio irragionevole, caro signor Trockley, amico mio. Ma vedete, mi son permesso d'aggiungere timidamente, ella è andata via lo scorso aprile, con negli occhi e nell'anima l'immagine graziosa di quel capretto nero. Non poteva, siamo giusti, far buon viso, così, irragionevolmente, come è evidente, alla ragione che voi, il signor Trockley, le avete posta davanti all'improvviso con quel caprone mostruoso che le avete mandato. Ma dunque, mi ha domandato rizzandosi e guardandomi con occhio nemico il signor Trockley, che avrei dovuto fare dunque, secondo voi? Non vorrei, signor Trockley, mi sono affrettato a rispondergli imbarazzato, non vorrei sembrarvi anch'io irragionevole come la piccola miss del vostro paese lontano, ma al vostro posto, signor Trockley, sapete che avrei fatto io? O avrei risposto a Miss Ethel Holloway che il grazioso capretto nero era morto per il desiderio dei suoi baci e delle sue carezze, o avrei comprato un altro capretto nero piccolo piccolo e lucido e simile in tutto a quello da lei comprato lo scorso aprile e gliel'avrei mandato, sicurissimo che Miss Ethel Holloway non avrebbe affatto pensato che il suo capretto non poteva per 11 mesi essersi conservato così, tal quale. Seguito con ciò, come vedete, a riconoscere che Miss Ethel Holloway è la creatura più irragionevole di questo mondo e che la ragione sta intera e tutta da parte vostra, come sempre, caro signor Trockley, amico mio. Fine della novella. Il capretto nero. Registrazione di Laura.